ho capito. 5 watt. La radio con un microfono normale, tanto va bene quindi. Molto va bene. È perfetta. Positivo, positivo, vabbè. Sono su Facebook, sto cercando di rimorchiare, ma non si riesce. Cos'è Antonio? Non ti ho capito. Perché so che morgiare, ma no, non è presa un po' di mio per campo. Ah, positivo. Antonio, puoi provare se mi ascolti. Hola, hola, attenzione 10. Mi senti? Non ti sento già. Senti bene? Io ti sento bene. Mi hai telefonato un po', No? Ah, no, sta per dire un cazzarola. Dirmi che cosa? Vero. Hai compreso, Anto, ripeti. Vero, mi vero. Ah, è cappa oggi, dai. Cappa, cappa. Beh, ma è possibile farla una cosa? Adesso vediamo domani. Quando com'è, perché non si fa una maniera che sono il momento giusto, hai capito? Però è un casino. Ma infatti occhio alla penna e mi raccomando, Senti un attimino, non c'era nessuno? No, non me ne sono. Adesso non mi ritrovo il libretto per le mani, dopo lo guardo e vedo, ma forse c'avevi ragione, era un 10. Non era guarda, stai attento perché fai tanto al motore. Dopo ti do uno sguardo, eh. Hai voluto il consiglio che ti do, forse un po' le cose. Che se per le aperte fuori, non che per verificare col tuo olio. Scusami un attimino, ti lascio 10 minuti che finisco di fare carica batterie e ci sentiamo fra un attimo. Hola. Avanti. Ebbene Gianluca. Ciao Alessia. Buonasera. Allora, Ale, tutto bene? Tutto bene, e tu? Vediamo, io sono finito per cercare lavoro. Stavo lavorando su internet qua, questa cosottina. C'era Gianni, e poi me ne sono stupito. Dai, ma che roba. E stanno a tacere, se è saltato Gianni adesso. E c'è, sembra verso le 8 e mezzo da lavoro, quindi alle 9, una cosa all'altra, penso che entra dopo magari. No, non penso che stava che aveva già cenato, perché era propriamente mezz'ora fa che stavamo chiacchierando. Ah, sono stato allora, ma c'è cenato allora. Sono le 10, bravo. Di sotto lui vale anche le 11 di notte. Ma deve essere che si è sentato un attimino per fare qualcosa magari. Ma tu hai detto come l'hanno già cenato? Poco fa cenato, 5 minuti fa. Sono venuto un paio di lattine, di birra almeno la sera. Oggi a pranzo ho mangiato male, ho mangiato di fretta, ho bevuto tutta la mattina senza bere acqua, ho bevuto due bicchieri di acqua, poi ho mangiato veloce, mi è rimasto tutto quanto sullo stomaco. Quello devi stare attento perché soprattutto anche magari la roba ghiacciata, no? No, l'acqua la calda, capito il discorso? Il fatto è che quando sei tutta la mattina che non bevi niente, poi rientri a casa alle 3:30, quasi alle 4, cioè 7, c'è cioè, anche il pane, cosa fai? Ma bevi un bel po' di acqua, poi ti metti a mangiare, ma mi ha incasinato tutto lo stomaco. Ho mangiato disordinato oggi, ma se continuo così mi butto tanto lo stomaco, mi incasina. Di solito io mangio tranquillo, per dire alla una, quello che è. Invece voi quando siete tutta la mattina che sei in giro, per sapere l'acqua, vieni a casa, c'è sette, cosa fai? Ti bevi l'acqua, poi c'è fame, mangi, ti blocca tutto. No, se infatti ti sei abituato così, dopo il cambio di abitudine, è meglio molte volte, secondo l'orario che faccio, non posso rientrare a casa, allora... per forza di ragione devi mangiare, ti devi arrangiare. Io se andiamo, sto portando un po' di frutta, un po' di pezzo, magari che non raramente mi porto un panino, capisci? Proprio per evitare di mangiare questi insaccati, queste cose qua. Non aspetto, magari faccio sacrificio sotto più di qualche ora prima di uscire, va. Anche se non è proprio l'ora di cena. Anche se magari sei riuscito a tardi e ho sbagliato anche cenare, perché molto molto prendo ti curi che ho appena mangiato, non va bene. Ma quando esco certe volte all'11, guarda, non mi porto sempre sicuramente qualcosa da mangiare, una forse una mozzarella, un'insalata, una cosa così. Sì, infatti invece non è facile queste cose purtroppo. Hai capito? Quindi mi trovo già che come poco sotto in tasca, più che altro, e quindi quando vado a fare il lavoro si trova la mattina al sole, cose del genere, sudi, poi vado per dire finisce alle 4 e mezzo, parto quanto non tirata, finisce alle 4 e mezzo, c'è 7 e non parto per bere un litro e mezzo di acqua. Poi c'è fame, ti mangi qualche cosa e ti mangi quanto sullo stomaco. E così è successo già due volte a me. Perché magari mangi di fretta. E quello infatti, quello mi sta guardando tanto lo stomaco a me. Già che io adesso mi porto il soddisfresso, quando sto facendo qualche lavoro più mi fermo, no? Andiamo al supermercato, mi piglio un panino, mi mangio un panino e poi c'è la biglia in culo. E dove vai? Beh, è logico, ma noi poi bisogna vedere anche quanto tempo c'è di pausa. Se ti viene, se c'è il tanto, dai. Sì, conviene molto molto che se non dopo diventa un'abitudine, se capita ogni tanto, già fai bene così a farti un panino, anche se non vedi quel cuscito crudo. C'è un po' meglio del salame, delle altre cose, quello lì già è. Che cosa fai con lui? Lui mangia un panino in 10 minuti, ma addirittura anche il pranzo mangia l'acqua in 5 minuti. E allora che mangia la pezzina di cavallo, per dire, in 3-4 minuti, non di più. Si mangia per fare le patatine e figlia poi va direttamente a lavorare. Ma non va bene così, capito? Ma anche a lui, io ho detto, non sei troppo... salvo il cervello, ma non è possibile. Tu lo sai che anche niente di meglio, mangia sempre lo stesso. Quanto con me. Tagli, anzi, se non sai mangiare qualche cosa, vai di un piatto di minestra a pranzo, cervo di mare. Ormai ci sono abituato, non sì. Per me, no. Sì, può capitare, perché è capitato, non è questo il discorso, ma per molte lo fai anche per cambiare certe volte, ma se tu bagni non mi ricordo così, magari fai la parmigiana, per esempio, ti metti due melanzane e anche ti fai un panino, insomma è già diverso. Ah, per quello sì, ma non è poi capire cosa adesso. Quando mi fa così mi porto, dice, soprattutto no, mangia più ricco, perché va. Io continuo a lavorare, tu arrangiati, io alle 5 e mezzo vado, faccio il pranzo, faccio la cena, te la tocco in culo, devo stare con mal di stomaco da due giorni. Tu arrangiati, fa quello che vuoi, dico, io mi piace come alle 5 piglio me ne vado, dico. Se ho finito il no, non me la potevo più nulla. Beh, no, però molte volte se sei in frutti, adesso non so come sia, ma non ho capito di cosa ti occupi. Ma tra l'altro, guarda, conviene fare una pausa, magari anche mangiare un frutto, per esempio, no? Riprendere subito e magari fare tutta una tirata e dopo magari andare via, specialmente per essere questo periodo d'estate, parlo. Il problema è che cosa fa digerire quando, per dire, fa il lavoro e fai, per dire, l'impasto piegato di, per dire, di intoppo, capito? E quindi è un casino, sì, finisci quello che c'è e poi devi fare, per dire, fai la pausa di 5 minuti e fai l'altro, non ce la fai digerire, perché ti pieghi e ti blocca lo stomaco, il discorso è quello. A un certo punto preferiscono mangiare e adesso se la piglia in culo. E guarda, io sono le 5, vado a casa, piglio, faccio il pranzo e faccio la cena ricco, non mi frega niente. E finiamo domani. Se tu vuoi mangiare, mangia, mangia, ti dico. Tu sei bene, comincio a mangiare. Ma dico, guarda, non sai neanche veramente cosa fai, sembra tecnici. Sempre la stessa cosa, noi ci abbiamo già tanti cose da fare, sono noi che siamo abituati a fare, ma più anche con il breve tempo che ci abbiamo, comunque sia. Poi guarda, dice che dovessi anche prepararmi da mangiare, anche se avresti avuto anche un'ora e mezza di pausa. Piuttosto magari, sempre che te lo permetta il tempo di arrivarci, comunque sia, Cambiare magari una cosa anche più tanto di pasta, anche con gli olio, una cosa veloce, no? Magari preparata, ci vuole 5 minuti, quando metto la pentola a bollire, taglio uno spiccio d'aglio, una cosa che metto un soffritto, perché mangio un piatto di pasta. Oggi non mangiare sempre panino. Ma che cosa vuoi fare? Con questo, tu mangia neanche 3 minuti, capito? Tu hai studiato il giorno, ho mangiato le... una fettina di cavallo e le patatine neanche in 3-4 minuti, io non resiste così, questo lo facevo io al lavoro, quando facevo la ripartizione di baracchino, non c'avevo neanche il tempo, piavo e mangiavo mezzo panino nemmeno, salivo sul massimo e facevo le riparazioni, cosa non ho avuto? Non ho avuto solamente malattie e basta, non ho avuto altro, da stress, poi dopo mi sono calmato. Adesso se mi trovo la pausa, a me tutti qua, dai, muoviti, mi serve quello, mi serve quell'altro, bla, e ho cessato, alla peggio li messo io. è così, ma non mangi male, non ce la fai, a un certo punto devi essere un'ognazione, io lo faccio. Quando riposo, no, io continuo, mangia, tu sei di mangiare, io alle 5, mi accompagno a casa per gli impegni, faccio il proprio la cena, ecco, non interessa niente. Affogati, fa quello che ti pare, ti piace. A me lo facevo imparare un pochettino a fare, pausa di mezz'ora, che cosa, neanche 3 minuti fa lui. Allora dove sei venuto a mangiare? No. Sono giorni, guarda, ma di stomaco per colpa sua, ogni volta che mangio qualcosa, tutta la mattina senza bere acqua, che arrivo là, dopo un po' di letto, un bicchiere di acqua, poi metto a mangiare e mi si blocca lo stomaco. Ma poi che scusa, quanto c'è di tempo per fermarti? Adesso non è il cambio sistema, adesso la mattina non mangio niente. Bevo l'acqua, tu qualche giorno, quello che è, andavo a casa, sono arrivato alle 5, vai, arrangiati, io me ne sto andando. Mi accompagna la gente, dico, vai, mi faccio il pazzo a cena lì. Mi segno, mi parli con calma, mi siedo nel coso, per dire, e arrangiati. Ma dico, quanto tempo c'hai tu di pausa per mangiare? Faccio di parlare con i matti, non esiste, no. Lui c'ha 20 buoni, io c'ho pochi 20, grazie a Dio, e quei pochi che ci metto più di mezz'ora a masticare la cosa. Ma quanto è che ti fermi tu a pranzo? Quanto c'è di tempo? Di solito quando uno va a pranzo va alla 1, finisce e poi rientra alle 2. Ma uno con quello fa. Mangia la pedina quasi alle 2, alle 2.10, 2.15, 2.15, già proprio va direttamente a fare il lavoro. E mi dà fastidio, ho capito che lui va da solo a fare le cose. E quindi gli metto i cuscini a me. Mi metto lo stress, non ce la faccio digerire, capito? Sono due giorni in quelle condizioni. Adesso domani mattina quando faccio quel lavoro, quando vedo la roba, io accompagno da casa e ti arrangio, mi interessa nulla a me, io vengo da casa a mangiare, ma non mi interessa nulla lì. Io mangiavo un cavallo, sono due giorni ma di stomaco per i fatti tuoi, dico, se tu vai mangia come il culo, tu c'è lì, ti ho detto mio. Quel poco che c'ho, sono andato per parlare al cavallo, dico, e la mangia la cara. Bombone, oh. Abituato, molte volte cambiare, cerca di cambiare abitudini negli altri, molto tempo succedono queste cose qua. Veramente lentamente rimane un macchino, secondo me mi conosce un luogo, un nostro domenico, la minestra, ma con la macchiaggeggia. Ma come ti farebbe la macchiaggia la minestra? E ti rendo adesso. Ma sto dicendo, lui... ma c'è anche la moglie, ma vabbè, ti ha mangiato? Sì, ti ha mangiato. E sono sparte neanche 5 minuti. Ci ho mangiato una fettina di cavallo veloce, così, 4-5 così, e tre pomodori. Abbiamo entrato a letto. Io ancora addirittura, figurati, che io ho cominciato troppo di lui, siamo ancora la fettina a metà. Mi stava già girando il collo, perché se mi era nervoso, ti viene capito che lui va a fare le cose da solo. E tu non mi per dire. E domani magari vuoi un collo. Esatto, e quindi adesso domani mattina cambio abitudine io allora. Non so niente, adesso domani mattina. Allora una prima ma l'ho tutto minnato. Dico, io compagno da casa che me ne va a casa, ecco. Non mi interessa niente. Io sono andato a casa, sono due giorni, ma di solo ho di fatti tuoi. Quindi mi accompagno a casa e lo facciamo l'altro giorno. Non mi ha fatto nulla, io non sono un cavallo e non sono un asino. Ma ci fanno la palla che tutto quanto ogni calciata sta bene in 2:30, anche da voi. Ma tu cosa fai? Se avete la roba pronta, buio tu? Ma mi sembra per mangiare pronto? No, io ho fatto la voglia di mangiare, non è che glielo porta pronto. Ti devo andare al ristorante, quello che è, già, tipo quei mangiare che... che vanno a sperare, ci sono le, c'è qualcosa già confezionato, capite? Vabbè, secondo che zona vi trovate non vi conviene andare per esempio tipo a bandiera gialla, quella cosa lì, a loco di base, fanno un primo secondo in base di burro, non c'è di burro. Non lì non ci va lui, una volta che andava adesso non ci va più. Ma se mi sembra c'è Antonio ci sei? C'era tutti, era lui. Sono di Bussotorra. Buonasera Anto. Dici un po' pezzo stasera. Sei entrato la seconda volta, poi tu sei sparito, ora ti sei cinta tutto quanto di nuovo. Non ho cambiato quel cazzo di posta possibile, non è successo più niente. Sistema tutto, mi mettiti un bel alimentatore che ho detto. Così anche con questi portafusibili, fusibili da cosa, un canottello. Metti un bel alimentatore di lì, da 3-4 ampere, quello che quando ne voglia, quindi accendi senza troppo in culo. Vabbè, no, ma no, devo stare molto modulando, no, vabbè, vediamo anche se... l'ho preso, l'ho tirato al muro, quel cazzo di cosa, ma sono comprato un altro che funziona bene, non ho mai più problemi. Chiappa. E comunque arriva... e lì cazzo lì si può far forza, Ho detto che una bella zona per poter modulare. Se lì ti presto una bella avanza, una bella gamba lì, fai un sacco di riex, fai quel sacco di Sardegna, te lo sto dicendo. Io ho abitato proprio lì vicino, dove sei tu, figura di tu, mi hai zitto. Però se ce l'hai attaccato al culo, poi c'è il canone del centro Sardegna, se tu ti piace una bella antenna lì, parli di sera di mattina, apri notte con la tua di Oristano, Bosa e quello che è. Non sai quello che pensi, te lo sto dicendo. Se ti piace una bella antenna lì, fa un po' di danno, perché dice, anche se sei più basso, ma c'è tutto un tappeto di là per il centro Sardegna. Yeah, dipende da me, io l'avrei voluto poter fare, ma non posso, hai capito? Sì, sì, stava una bella antena di frutti, quindi io vuoi vedere poi mi dà ragione. Allora, ti chiedo. Signore, me lo saluto tu perché io Antonio purtroppo non lo sento. Se mi sento, ciao Antonio, purtroppo la condizione qua sono sfavorevoli, troppo QRM, troppo propagazione da lontano. Dante adesso guarda con la fonte casomai, me lo saluti, mi dici se per caso lui non ha sentito. Antonio, senti a Gianluca. Grazie, anche per me lo stesso. Un buon saluto lo stesso, vai. Non ti sente, quindi ti sento lo stesso. Non è uguale, tutti e due siamo nella stessa condizione allora. Io lo sento, Pomponio. Ah, non senti, fatti un sentirti. Ti sente, ti sente Gianluca. Già mi sento allora, ciao Antonio, se mi ascolti, io purtroppo non ti ascolto, c'ho una pettinatura 4 che sto correndo. Ti sente bene, non ha problemi. E io purtroppo no. Però c'è qualche antenna su bassa o lì? E l'antenna bassa c'ha, è un terrazzino, quindi è la veloce. Ho capito, è benvenuto. Purtroppo mi dispiace, non riesco a levarti fuori. Mazzino, è una porta finestra, fidaccio. Tu non ho detto papinetta della figlia, è stato di basso semi. Ma non la giugana va. La casa palchetto, vedrai che sfondi tutto. No, no, devo usare questo stasera. Guarda, io credo che sta cosa fa quel tetto che c'è vicino, va, ti giuro che ti scende quel cavo e ti arrangi. Se mi capita di fare qualche impianto lì, satellitare, piglia e faccio più paura di prendo 50 metri di 50, se te lo butto giù te lo butto. Ma dici cose, sei tranquillo che già non mi fa meno. Ma io. Avanti, Gianlu. E dopo cosa c'è per caso, visto che ci sono ancora, c'è un'antenna veicolare per caso sulla terrazzina, un antennino di battetto però piccolo. Mi sembra una specie di bazooka, una forma 26 che mi sembra sta usando. C'è tipo quel bastone. Un casino, capito? Perché io ero un casino quando sono venuto qui a di andare nella città e dire come sono entrato, mi hanno telefonato, mi hanno dato tutto, mi hanno detto quanto isolato e quindi sono arrivato qua e mi sono trovato un accidente. Ha avuto pisciare col capo condomino perché se tu vieni qui a buttarmi, me la banchi, non ha capito, eccetera, eccetera, ho preso più la puntiglia. Ha detto no, le cose non sono così, gli ho detto, c'è la concessione, mi ha detto, no, beh, ma non basta, se no ho detto ti faccio passare casi. Allora come possiamo metto, un pochettino metto, c'è stato uno qui, dice l'antenna. E adesso devo fare uno due buchi lupi, capito? Per attaccare il suo. Salute. Non so se non sono una cosa. No. Non bisogna avere la possibilità, come ti dico, di tutti a far sopra con un cuso di antenna, magari tramite Edo. Però per darsi non so se c'è una centralizzata. Se invece c'è un'antenna indipendente, magari con il cuso di antenna, dai, no? Se mi dà una cosa del genere. L'unica cosa, ti giuro, guarda, quando uno c'ha in gestione per tutto, c'è un baracchino, è diverso, una villetta e basta, l'unica cosa da fare, oppure se vai in campagna. Non c'è nessuno che ti rompe la mano con sé, non c'è nessuno che ti viene a riportarla e fai quello che ti pare ti piace. E non metterci con nessuno, il discorso è quello. Nel condominio è un casino, c'è quello che dice, ah, l'antenna è troppo grande, e la fastidio per... Hai capito? E quindi ti do dei cursi. L'unica cosa è quando uno può fare il CD per dire non puoi, comprate una villetta e andare direttamente in villetta. Boh, basta. A meno nessuno ti rompe le palle. Cavolo. Ma già l'hai detto, sempre fare una villetta. Non è reale. Vivere indipendente. Ma sarebbe bello. Sì, guardami su lui, nel senso che non ti interessa se non c'è una cosa antisistica e tutti questi disturbi che ci potresti fare magari a qualche numero, magari. Anche se adesso poco ci credo a questi disturbi, quando uno dice disturba o da chi è oggi come oggi, tanta quella che c'è, tanta questa situazione, insomma, di terrestre, la parabolica, satellitare. Sì, sì, dopo non c'era più neanche ragazzini che pigliano e fanno le cose così all'altra, ci interessiamo di rubare, ci interessiamo di antenne, come per posizionare, insomma. Non lo so più, guarda, io non ho tanto abbastanza quando uno di divisione di fondi a cui fatica di dire della televisione. Purtroppo ho cacciato un terribuscio, un appellare, ma prima non disturbava, vabbè, ma prima non avevi barati la raggio, sarebbe un viso, ma che da vedo da quello fa due, ma non trattano i barati in punta bassa. In quella che l'antisettica non c'è proprio niente, se tu vuoi controllare, non ci sono questi ripetitori telefonici, che sono ancora più veloci durante il barattino. Quando c'era un cacao sotto nel condominio tutti stavano zitti, ci volevano pure sia l'incomino che l'ultimo piano, cioè di quelli che stavano stare l'ultimo piano sia il condominio. Allora non c'è subito di televisione, non i problemi che c'è per la persona, perché incassano soldi. Il discorso è quello. Se fu fatto per dire un cibo di mattone che a lui per dire da 200 euro all'anno, come il sud, come lui, sapete che non lo posso attaccare le antenne che vuoi. Se tu non hai capito che c'è, te lo dico io. Appunto, gli enti, ma gli enti dall'antenna, io ne ho mosso i ruggini, con il cavo tutto brucio, sempre al cessore, l'acqua tutta l'intemperie, anni e anni e anni, e se lo prendi pari un grissino, si scambiano le pizze. E lui gli ha dato per mi scuda, ma per la voglia di lui dice, ma per cosa mi scuda, ma che rendi tu? Ah, adesso sai, ti posso dire, la grotta c'era, per fare un tempo a fare tutto, non se ne capo a piedi, dai rifugi che c'erano, della TV locale, della radio locale che c'è lì sopra, poi ci sono i telefonici, cose del genere, ho dato c'è un filtro, la persona non si vede da un accidente, capito di là sopra, eppure non ha fatto di parlare. Perché da poi c'era incassato un sacco di soldi, capito? Sia dalla radio e da quando è nato dai potitori telefonici. Sono andato a facere il pezzo a cartello, che non di tu. Alla fine non hai contento di stare cantando gli anni. Sì, un pochettino, secondo me si potrebbe fare qualcosa rispetto se c'è l'antenna indipendente. La scusa con l'altra magari di sistemare la cosa, magari hanno attaccato, ma che se mi ha se mi ha dato la mia giorno, mi fa realizzare. Non ti fa aspettare niente, no, non hai capito. Sì, però sarebbe fatto bene così. Quando la luce è già pronta, sopra il ripetitore della... della SIP, cioè SIP, non, o diciamo, o un mistertini, quello che è, un paura per dire da mezzanare, tu l'avessi messo una manto qua sopra, ma anche per non parlare niente, capito? Aspetta, mi ti vado un attimo di cucchia a capicolino? Sì, non c'è problema. Allora, tanto. Ma non la mantello, il nome, Capi tanto, dimmi. Io non ho idea di la mia antenna, cioè sono anche meglio di quella, la verità. Però, tutti i siti sono circondati e vanno bene, c'è la Super LM, c'è sono varie le antenne. Questo, che se lo metti lì nel grattacielo, è sicurissimo. Non ho capito, stanno c'è un... C'è una seconda? A me c'è... fortissimo con la catena grande. Poi lo facevo con prima di generatore, perché l'ho visto nel fianchetto, non gliela fatta mettere su, gliela fatta mettere nel fianco dell'ultimo piano, ma non sopra, quindi perché c'era problemi capito in trasmissione al modo radio, lì ci sono tutti i modo radio, vedo zero, dove c'è il ripetitore del nostro Xiaomi, che è quello che è. Sappa, capito, quindi si sa come va e diventa tranquillo che è un casino per poter vedere la televisione. E quella è che lui abita, che ci abita lì, per vedere la TV. Perché l'hanno nel pancone lì, la prima, ma per il televisore. Ma poi la pagina su, tutto sto dicendo, quando tu sai, tu ci sei mai salito, ma se un giorno ti faccio salire, se secondo te c'è di quella di testa. Chiaramente ci sono partenze troppo alte di Cilicca, poi te lo sto dicendo io. Quindi che non faccia male la partenza di radiazione delle trasmissioni in tutte le frequenze. Tutto ciò che sono molto sano, tranquillo, con solo la maldizia sarà troppo male. Poi sono dovuto scendere, sono andato dal circo, per guardarmi, per dire, rilassarmi. E poi una pila piano piano, perché c'è una difesa che se vuoi, adesso preso bene tutto di notte, c'è proprio che tu vai a parlare di là perché c'è il fresco, che stai lì a pescare, che quello peschi in accidente. E dopo due o tre ore comincia a avere una difesa forte. Ma fra guarda più dettore, cazzo quanto quello. Avanti, ora prova, chi è che chiama? Buonasera, avanti. Buonasera, fate da questa parte, perché la vizia, ha detto che sei la notizia, così è. Ho avuto una scarica qui da noi, sta piovendo in questo. Buonasera, qua la stazione Alessio, Prato d'Antonio, a Santanello, la verità, da Sassari, Nord Sardegna e Italia. Sono Domizia, quindi già vedo bene, no? Santiago 7, casi 8, radio 5. Buonasera. Ok. Già vedo bene, ho fatto che ci sia la preparazione un po' piano, stasera, ma... Già vedo bene. Non tocca parlare, c'è la vita se c'è Domizia, meglio così. Ah, tanto lo sento Domizia. Scusami, a un certo punto, cazzo, io capito tutto Bizzona, io ho capito Bizzona, che più o meno si assomiglia. Ma comunque qui se il camionetto non ci arriva, forse è meglio che il volcanetto che lo sentirei addirittura, ma nella camionetta, ma qua proprio è meglio che vada nel soggiorno, guarda, la verità, perché non arriva per niente. Intendo, è lui che posso levare il volume, capito? Già fuori che posso levare il volume. Io cosa usa bar? Un UHF. Aggiungo che lo squash, Alessio, una telefonata. Io non so quella telefonata, c'è parlato, tra noi due, ma con Giampaolo, si è abbassato attorno, non ho capito cosa sia successo. Prima arrivava benissimo, non c'è un problema per ascoltarlo, per parlarci anche addirittura, tutti i giorni. Adesso si è torno abbassato. Se non ti intendi, la FM anche dovrebbe spingere quella per cui porta di giro, ma no, la radio non vede. Ale, ti sta chiamando, comunque sta parlando, comunque zero, non lo senti per niente. Dice Giampaolo se passiamo la M. Guarda, forse la FM è molto meglio della M, perché lui deve attaccare il cable, perché esce molto molto più forte degli apparecchi che sta usando. Se lui attacca il cable, io provo perché lo sento anche, senz'altro, ma addirittura neanche Antonio lo sente. Lo sente Santiago, mi sembra uno, così mi ha detto, Antonio Bombolo. Ricordati tu che era veloce, è più vicino lui a proposito che io. Vabbè, aiuto magari a un attimino Antonio, ha ragione di tutto Masuglia. Ma mi intendi in chi mi puto d'ora? Oh, salute! C'è un po' amico che stai là e memi. Alessio! Dimmi! Basta un attimino in AM, che Giampaolo vuole fare un passaggio in AM, magari se lo senti. Dillo anche Antonio, se mi ascolta a me, di passare a Bombolino, dille di passare in AM. Sì, calmi di Vandrina. Proviamo, dai. Vediamo se lo sento. Cappa di Roger, dai, facciamo questa prova, dai, tagliamo a testa al toro. E non rompere il gatto, credo, vivo qui, vivo chinare, vivo china, luce. Prova a parlare, vedrai, 1, 3, 4, 5, 6. Quindi se adesso lo barattino camminare, perché ha aggiunto il capo e basta. Esatto, esatto. lui adesso si trova lì, capito? Ascolta un bel pazzo, Di solito quando mi guardava dalla camera grande lo sentivo io quando c'avevo la lingua. Capito, Invece lui evidentemente o si può permettendo di veramente il camerato, che forse è meglio, che più potente ed è più tranquillo, perché con la parecchio presina non ce la fa a spingere. Anche una bella cura può essere un bombo dentista. Adesso buono, un altro bombodino. Non lo so. No, magari lì si può fare un altro discorso. Come ve l'avevo appena accennato l'altro giorno. Non forse non abbia capito bene. Arriva a Santiago 9:20. figura di buco. Ma allora che andavamo a ragionare di Nai, scusa, era troppo bello. Troppo bello. Aveva un grottesco Maria. È logico, perché questa è qualche cosa, il tipo mio, in una camera sono una cosa telefonica da sentire, capito? Sono molto molto meglio di un apparecchio la M, per dire, lavora molto bene in FM questi apparecchi, e anche in banda. Allora facciamo l'FM un attimino, dai, lo diamo di... sotto per spostare di canale. Dai, ripassiamo un FM allora. Ci siamo. Ehia, il cavolo fa voglia. Una cannonata e no, dai. Non le pagare nulla, no, esci a vedere. Voglia. Ma lo controlli questo segnale un attimino, Alessio, per cortesia? Guarda. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambio. 9,40 qua, sì, con l'amplificato davanti ho inserito il video di 2, quindi sì, 9,30 qualche cosa. Ok, dai, riabbassiamo, dai, un attimino, scusa. Ecco, dimmi quando sono verso 9,10, così ci sono, 9, 9, 5. Vabbè, io sono con l'amplificato dell'antenna, quindi è logica la cosa che aumenta. Non sai come ha fatto il C80, quindi va bene così. Ehia, così come sono lì, giusto per mettere in posizione il potenziometro. Lasciamo così, va bene, avanti break, chi è? Come? Antonio, dimmi. Quando sto io lì? È certo che arrivi. Quando arrivo io? Prova. 1, 2, 3, prova. 2,20. Prova. Bah. Prova un po'. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sono... hai la bomba qua. Va bene, con 5 watt più cosa vuoi in più. Fabrizio? Ehi Fabrizio, Ciao Fabri, ben sentito qua, Luca da Portatore, ciao. Luca, ben sentito, mi senti bene, sì, che succede con 5 watt? Quasi 9,10, 9,5, 9,10 modulato, sì. Come ti sta arrivando Fabri? Guarda la cortesia. Controlla questo segnale, fa la cortesia. Questo è otto e mezzo. Guarda sempre quello con l'occhio lì. Guarda con l'occhio un attimino. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambio. Aspetta, scusa Fabrizio, non ti ho sentito bene, mi ripeti? Secondo. Allora, Giampaolo, dimmi, come ascolti tu invece, Giampa, in FM? Sì. Buonasera. Ehi, scusa, me l'ho dimenticato. Fabrizio, anche Giampaolo ti saluta, che purtroppo non può modulare adesso, che un attimino sono disturba lì in cui area familiare. Io ho capito, aspetta, stanno chiamando, facciamo così, stanno chiamando dalla Germania, perché non ci riusciamo a farli entrare, aspetta, ecco così. Attenzione alla Germania, c'è ascolti l'Italia. Leggermente sta parlando in FM o vabbè. È troppo amplificato sicuramente in FM, aspetta che abbasso. Meglio va in questa maniera. No, lo che ci fa già tanto la cosa, c'è la. Come si chiama? Quanti di merda. Deve, mi pare che è quella cavolera. No, non mi ricordo adesso. Che fa solamente con la trattura lì è perfetta. attenzione alle FM, perché aspetta, io abbasso, forse era un po' troppo alto, così meglio va in FM. Fabri, così è perfetto, io che sono a distanza ti sento benissimo. Ok, attenzione Max, attenzione Max, si ascolti l'Italia. Good evening, buonanotte te. Good night, my friend. Ah sì, good evening, buongiorno, volevo dire, good night. Sto sbagliando lì. Comunque, good night. E questo la fanculo, quello che è. Avanti, beh, che ciao Antonio, comunque. Ciao Lello. Ciao Fabri. Là, ciao. E beh, Anthony. E allora? Con chi stavate parlando? C'è Luca, dal dottore, e poi c'è Antonio Bombolo, e tu? Fabrizio e poi questi della Germania e basta. Aspetta un attimino che proviamo a chiamarli. Achtung free in Germany, Achtung. Secure, secure, secure, free in Germany, secure. Ma lo sentite? Secure, secure, secure the X to Italy, my friend Germany. Oh, io non lo sento. Ho poco come ho sentito io. Attention, my friend German, escuchi station a Parima Italy. Rinovi, mi teme, fa prima. Please, the name of your station, my friend. Okay, my friends, secure, secure, secure the X. Your name, my friends. Do you hear me? One more, I don't understand. Please, repeat one more. Please, speak English because I don't understand. In Italia, break on Deutsch. No problem. Come, my friend Giovanni. Italia, Mailand. Roma? No, Roma. Sardinia, Island, Mediterraneo Sea, Sassari City. Ja, kannst du die Station da hier, die Station, Please, slowly, please, I don't understand, please, repeat one more. Sorry, my friend, but if you don't speak English, I don't understand, please, repeat one more in English language. Io ho comprato gasino, mi conduce. Non se ne comprende nulla di come stai vedendo, già io non manco un poco in inglese, però. In Germany? Okay, no problem. Secure, secure, secure the X. Acton, Acton, free in Germany. Acton, secure. I think I'll take your side. Ja, komm, Italia, Greco. Okay, no problem. Come, Greco. Apollo. Stazione Apollo, prego. Okay, my friends, stazione Apollo, no problem. I understand in this moment. Okay, come. Yeah, come. kann ich gut Italienisch, ne? Kannst du ein bisschen Deutsch? Sorry, but don't speak Deutsch language. Speak English, my friends. Your power is 9 Santiago and radio 5, no problem to understand. But speak lowly and speak English, my friends. Ja, Sie. Ja, Holger. Kannst du die andere Stimme? Santiago 9 und Radio 5. Siamo mortante. Fabrizio. Dimmi. Che è questo qua? Niente importante, non ce n'è. Ma non ce n'è. C'è un importante Santiago 8 che ha completamente cancellato il tedesco. E meglio della Germania. Ok, my friend Germany, no problem. Sorry, but in this moment, no good signal for you. Thank you for your soul. At another time, bye-bye, my friends. Okay, okay, my friends. Alpha, break. Sbagliato, bacino. Hola, sei qui Italia? Come to Italy. Si copia, stazione 1-3 Kilo Bravo, 1-3 Kilo Bravo. Come stai? 1-3 Kilo Bravo. Kilo Bravo, come, no problem for you. Good signal, Santiago 9 and Radio 5, come. Okay, very good signal also from your side, no problem. I think the propagation is good. What is your city? Okay, I'm from Sardinia Island to Mediterranean Sea to Sassari City. Sassari City. My name of station is Anthony. Okay, Anthony, yeah, very good signal. 10 degree over 9. Anthony, my name is Sonny. My friend, Lino Bumpy. Come on. The northwest Germania, in the borderline to the Netherlands borderline. Your signal. Questa confine fra la Germania e l'Olanda. Quindi io non ho già capito Netherlands. It's super fast. Okay, Anthony, I am working here with 50 Westwood Street 50. Dove 40 arriva qua? Direttiva. Italia, fra Ciao, fuori la mente, chiavi ben made in Italia. Ok, Antonio, microfono per te. Ok, my friends, no problem to understand in this moment. Good signal for you. In this moment I am from Sassari and with in this moment Cresso with four friends and Antonello Pomponio. Fabrice is of cat and little Sommel. Chiedo, my friend, my station number one, Sassari, number one. Perfect, we down to vertical. Horizontal is better. It's very good. Antenna made in Italia. Antenna from the Rio Sierra 24. Okay, Anthony. Thank you very much for contact. I'm sitting here for the television and I'm listening to your signal. You're good. Wish you a good night, Anthony. Have a nice day. This is the firm. And, Anthony, I'll say bye-bye. Ciao, from Simon, North and Coast to Germany. I'll see the same, my friend. No problem. Thank you very much for little QSO. 7351, you and your family at another time, my friend. Bye-bye. Okay. Ciao, Anthony. Antonio Anthony in English language. Okay, bye-bye. Ciao. No problem, my friend. Okay, bye-bye. This is a family. Okay. c'erano i tedeschi che disturbavano, allora siamo passati le FM e ci stanno chiamando, ci vogliono bene questi tedeschi. Io stavo ascoltando la tua canzone. Io ho letto che fa male tutta la faccia tua. Bene, buonanotte a tutti, state bene, ciao ciao. Ciao, sei caldo stasera. Un saluto. Stamattina al lavoro, molto un fatto un volo 8 metri. Se lo dà un gas 8 metri. C'è un gruppo di miracolo. C'ho una spalla tutta intessata. Punti nel braccio, però, no? Un casino. Non è colpa mia, non è la colpa, c'è tutta la frammentazione di un mozione. Poi siamo a stare una delle moto pure noi. Poi capo. Quanto mi hai per un mese e mezzo adesso? No, adesso ne ho 20 giorni. A meno che qualcuno abbia bestemmiato qui. Sono caduto per quello, hanno fatto crollare mentre stavo passando io. Ciao Clande. Ciao. Gianni, sì. Gianluca. Casogo, non mi intenda che. Sì, Gianluca, ti sento. Gianluca, tutti già Gianluca. Cazzo, sei andato bene, dai. Me l'ha risende Gianni, me l'ha risende. Ti ho raccontato burro la mia, no? Perché sono occupato da... Ma te si chiama Tezza Cese, ha detto un capannone di Drigo. Si sono occupato, oia oia. Un globri. Ma qui c'è gente che sta parlando qua, sfottiamo, c'è problema. Sono solo tedeschi, tedeschi sono... my friend, tedeschi, tedeschi, tedeschi, Dolce Alan, capito? Mi ti hanno sentito, qualcuno ti ha flashimato a te, mi pare che con qualche trinca ti sei bisticciato in questi giorni. Adesso mi viene in mente quello di ieri. E che cosa? Mi dicevo nessuno io. Quello è un cane morto, e quello è un cane morto, lo drinka, lo cazzo, quello conosce persone in alto, quello cazzo è, ha fatto cacca la medicina di succhio, cacchio, vale letto, cacchio. Oh, così che no. Quello che ha fatto il rito kudu, kudu. Questa la bambolina ha fatto. Non conosce neanche la metà di quello che conosco io. Ma fate il fatto, non so neanche chi stai parlando, quindi no. E non mi interessa neanche parlarne. Adesso mi interessa sistemarmi e pregare che sia andato bene. Perché se sbaglio cadendo ti cavo il fatto una zona di spingimento invece quella fino a... Vabbè. Comunque a prescindere da quello non sono entrato qua per avere pietà e ci sono entrato a salutarvi. Divertite, vabbè, ci sentiamo le prossime. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, a domani. Riprendi Fabrizio. Sì, riprendo io. Bisogna scherzarci, ma qualche la bisogna scherzarci, ma se no ci viene da piangere. No, questi riti voodoo ormai, ti chiedere la gente. Vabbè, pronti sia andata bene. Ma se ne sia andata bene. Tra pochi giorni, a che punti ti hanno messo qua? Dei punti nella mano, nella gamba, ho preso un crosso, crosso del vascone. Ma ci mi sta tirando di più la spalla, capito? Perché non è mobilizzato, non posso muovere, quindi è un casino. E io vedrai, Fabrizio, vedo bene che eri l'ultimo, non ti preoccupare. Vedo bene che eri l'ultimo, non c'è nessun problema. Prima o poi tocca a tutti. Tutto il mondo fa esce, va bene, dai, vi saluto, me ne vado a vedere un po' di TV, ero qua che vi ascoltavo già la toccanza, ma sentivo tanto una stella strana, non capivo, invece eravate in FM, va bene, ciao a tutti, dai, ci sentiamo, fatemi bene, alle prossime. sono i 5-6 ore, 2-3 al giorno te ne prendi, almeno i primi 2-3-4 giorni, no? E poi, se no, fa male, capo, la botta fa male. Non ricordo, ho fatto dei medley diverse origini, toccando un po' tutti i posti del mondo dove loro sono stati. Molto interessante, molto bello. No, ma anche Fabrizio ogni tanto, se non sbaglio, vai a sentire qualcosa del genere, no? Prima non ce la faccio più, la famiglia è un casino, io poi non ho seguito, capito, anche a casa, non ho seguito, e quindi prima andavo, qualche amico ce l'avevo che ascoltava, poi andavo qualche fuori a sentire, però più che altro jazz, già, più che altro vi andavo ad ascoltare, sono amante di quel genere, però il sax mi piace molto, c'è anche qualche bella registrazione, è bello, un bello strumento. Ma non avevi sentito da poco, mi avevi detto, che ti aveva portato Pomponi a sentire un concerto di fiatti, che c'era una nigeriana, i sacchi, un'ucraina e una cecoslovacca. Ce l'ha con te, Antoni, paga i debiti. Ma chi ci sono, tedeschi sono? Ehi, tedesco, Guarda Antonio, ha già pagato due volte l'amica tua, ci ha pagato due volte 35 euro per 10 minuti. In bagno, no? Oh, vi piace la modulazione con queste cuffie? Excuse me. Fabrizio. Emmo. Ma così meglio ti va, perché siamo in FM ovviamente, in FM spingi un bel, meglio va così. Così è perfetto. No, non è vero che è perfetto, hai sentito il tedesco che ho detto, no. Everything fine, quindi figurati quanto la vedi. Avanti il becca. Fabri, come ti sembra il mio microfono? Fabri, a me è basso di radio. Passo in QRT, vi saluto a tutti, salutone a tutti, dai. Buona giornata, buon continuo di QSO, buonanotte, buon riposo quando lo farete. Ciao ragazzi a tutti, ciao, a presto. Ciao Gianlu, affidatene. C'è un break? No, Gianlu, ma che apparecchio stai usando? Il 14. È vero che problemi in chat, tu senti che stavano avendo problemi? Niente, Fabrizio, posso qua magari, vabbè, io non so, vabbè, come è la situazione, l'abbiamo visto con Claudio, abbiamo messo a posto perché era veramente in maniera pietosa questo qua. Niente, nel FM sembrerebbe che risponde bene quando vedi sollevo la limitazione, non va a distorcere, poi se lo rimetto come era prima. In FM invece non posso sollevare più, devo rimanere col potenziometro un po' meno anche della metà, perché se vado a aumentare lui va in saturazione, si mangia la radio. Ho capito. Picchi positivi da sempre. Sì, comunque sia da sempre picchi positivi, sì. Guarda, sicuramente vabbè, qualche registrazione magari bisognerebbe rivedere comunque. Mi ho riallineato ancora parecchio. Basta girare tutte le rotelline verso destra per mezzo giro e poi di nuovo verso sinistra i primi due. Non lo so ragazzo, la macchinetta. Che cosa è preso per una macchina da caffè? I giri del carburatore. Sare lo spido lo Gigli, un rubinetto, che li dai sui giri. Ah sì, è già andato. Poi ti aspetta, chi che vuole entrare? Cosa è il tempo, lo finivo, dice là tanto. Come, scusa? Ma c'è che stavo per la casa, ha detto, non c'è. Ascolta, non capisco, cosa hai detto? Cosa hai detto? Anche se russo sembrava. Beh, tanto, tu mi dici di calare. Di alle bolla io me ne faccio un po' di quelle T. Ci vediamo domani, statevi bene, buonanotte a tutti, ai Fidelsen, Achtung. Ma in quegli apparati lì, il finale di potenza, sta sul Vlissi? Qui il finale di potenza non li uso io uso solamente la carta igienica quando... perché la fredda prima, capito? Dissipa. È il culettino caldo, vero? Piccolo. E allora, mi sento quello, c'è un culo piccolo. Avanti. brecchi per un controllo, grazie. Avanti brecchi per un controllo. Sì, sì. Fa vedere tu, Anto. C'è uno che voleva entrare. Poi c'è uno che fa sì, così, così, così, Anto. Avanti per un controllo con lume attivo. Avanti, amico. Ok, buonasera a tutti. Controllo, grazie. Allora, qua arrivi Santiago 7 e Radio 4, avanti con lume attivo e contraccambiamo il controllo. Capito, capito. Ehi, sono facendo fantasma, sono fratello Gino, modula di Alitalia, grazie. Fratello Italia. Dunque, scusate se sono nella mia ignoranza, io chiedo scusa a Vittorio se non lo fosse. Viene avanti di nuovo un attimo, mi sembra Vittorio Giove, boh. Vediamo, sentiamoti. Ma da dove che stai modulando? Qui a Italia alza. E con che cosa stai uscendo? Con un giocattolino? Niente, a coprire qualcosa. Ah, ecco perché, cioè, mi sei dovuto arrivare 9.40, 9.50 qua, alla tua posizione, mi sembrava strano, ho messo Santiago 7.8, così. Perché tu dove sei? No, negativo, non sei in via d'Italia, perché se ti arrivate Santiago 7.8, a me sta arrivando 9.10, non fai la cosa. Tu dove sei adesso, Grotte? Io diversamente non posso fare, se vuoi che cambi la zona, dimmelo tu. 9.10 Radio 5, qua zona alta via Acquedotto, diciamo, cioè Acquedotto, sì, Acquedotto. Mi sembra strano che ti stia arrivando a 7, sei in via d'Italia. Anche a me mi sembra strano, tanto se sei in via d'Italia, io sono praticamente in via d'Italia. Ti mi sembra strano, Il servitore Giove. Provvisorio. Non sei una voce, ma dici salire sulla stoccola di tu. Qua è un Santiago di 5. Io sono nel corso di veloce, ma di italiano, ma di splat. Scusami, è questo che sono di salire, spray. Tendono questi che ci spostiamo. Sorry my friend, ma in this moment questo è local, local QSO my friend. Tung. Excuse me, Italia, Roma, Roma, Roma, City. No, no, City, City, Sassari, City, Sassari, Sardegna, Sardegna, City, Sassari, Sardegna, Italia. Nine, nine, Roma. Capito, capito. Sicilia, no, Sicilia. Sicilia. Oi, avanti anche la via d'Italia, con le scuse se realmente se la via d'Italia, ma boh. No, per carità, no, era semplicemente... Per la mia Wuppertaler o un QFO. Ho giocato con le cose. Abbiamo fatto l'antenna in... La potenza, hai visto? E se metto la misura qua, fino a quando non riesco a metterlo a posto, capito? E appunto volevo sapere come venivo fuori. Ok, chiudo qua. Ma che vieni fuori, ti ho detto il segnale, arrivano più forti tedeschi, qua che ti coprono. Ich habe, als du da gerade warst, der da durchgerufen hat, Non facciamo prima rimetterci in AM. Beh, AM per tutti. Soldi, fare ritivo du e tutta un'altra serie di cose. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, o secondo, ma ti pensi, era anni che non mi vedevo il sonno, alle 10:30 mi stavo addormentando davanti al computer, ho detto bene, oggi mi curico presto, vado a curicarmi, e c'era questo rumore di formaggio, ha variato, ho detto mamma mia, sono entrato, dove sta arrivando? Perché mi allontanavo, e vicino alla camera del bambino, ho detto, zia, che mi ci hai mangiato un bambino con le scarpe da tennis? E invece il poverino c'è venuto qui, mi aveva vomitato tutto, e si era spostato, era tutto pieno di vomito, infatti non l'ho preso, l'ho andato, ma te l'ha sotto quando mi è passato il sonno. La roba variata, cos'è che ti hai fatto mangiare? Quello che dovevo mangiare domani. Dovevamo mangiare domani, ma passa un pochettino, Fabio, non se ne comprendi nulla. Ma non è che non comprendi, sì, tu che non capisci niente. Secondo me io posso anche abbassare, però voglio pure preparare il tuo altoparlantino che ti sta incasinando tutto, se lo faccio veloce ad abbassare, poi mi andava bene così. Ecco, poi se mi allontano magari sono troppo vicino al microfono. Come si chiama? Salvatore che è basso un po' di radio, tu che sei a pompa non sei comprendi nulla. E quando ecco qua c'è Salvatore basso di radio. Chi è che ci è rimasto io, tu e Salvatore? No, non parlo, è andato a dormire. Vabbè, vi lascio, dai, vi sto ascoltando, continuate. E io vi sto ascoltando, poi vuoi dire se questo vi sta ascoltando. Ascolto, continuate. E compagno dove è andato a letto? Ti ha detto correnti. Mi ascolti? Avanti. Sei ancora lì, sei andato a letto tu. Comunque sembra che sia andato a letto. Sono ascoltando, Sapo. Io avevo sentito che te stai andando a letto. Quindi la state sentendo bassa di radio, però sto parlando a voce bassa io. No, già va bene, già va bene. Sono con le cuffie nuove, con il microfono in dotazione, le cuffie. Sto parlando con un filo di voce, però mi sto parlando mia moglie e la bambina stanno già dormendo. Io ti sento bene, ma come mai stai uscendo? Ti hai preso queste cuffiette qua? Cuffia perché così ho le mani libere e non devo usare il microfono a saponetta. E la qualità del microfono com'è? Parlando con un tono un po' più alto la qualità del microfono sembra buona. Chiaramente adesso sto proprio limitando il filo di voce per farmi sentire da voi, per cui vabbè, sto usando il PTT a pedale portante, c'ho le mani libere. Ho capito, vabbè, anche sto parlando a voce bassa per non disturbare. Ho capito, io questi microfoni non li vedo a sé, sarà. Avanti, bombo. Scappa. E mi ha detto tutto, magari. Stavolta sono stanco, queste sere sono stanco, non so fare niente altro. Perché se non arrivo a casa non ho mai più cane, fa nulla. Vabbè dai, anche se tocca a fare, tocca a fare. Vabbè dai, ce la risentiamo. A te Antonio Crop, salutoni a te anche Fabrizio e anche a Dove Antonio. Buonanotte Bumba, buonanotte e buon lavoro per domani. Noi dove siamo rimasti? Campa, io aspetta che faccio una cosa. E per monitor, per audio. E posso provare un'altra equalizzazione. Che oggi stavo provando 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Questa come va? Sembra un po' meglio. Forse un po' più amplificata. Allora, questa è così. 2, questa posizione. 3, ma mi sento. E non si sente niente. Posizione 4 è bassissima, mi sembra. Forse la 3. posizione 3 è questa. Un po' più alta. Mentre posizione con cui stavo parlando prima è questa, posizione 1. E questa magari forse è più chiara e più bassa. K. Se lavoro con il mic, lo levo, adesso l'ho sollevato. 8, 9, 9, 10. Mic a 10. E vabbè. E allora lasciamo così il filo di voce. Okay. No, stavo dicendo Fabri che do queste cuffie per la caratteristica della capsula microfonica K6G, che detto che è indicata per le radio IAESU, e quindi sapete però che nel menu fanno anche riferimento proprio alle cuffie della Hail Sound, che è questa qua. Ho capito. Allora aspetta un attimino che cambio radio, così siamo da soli, voglio fare un po' di prove. Aspetta però qua un attimino. Fai, tanto io mi sto facendo un torneo e ne avrò ancora per un bel po'. Come ti chiama la radio? Aspetta aspetta che aumento un po' l'audio. Vai, a riprova. Adesso ho aumentato un po'. Come ti sembra? Allora, come ti sembra l'audio? Povero di baci, povero di alti, non lo so, dimmi un po' su uno, due, tre, prova su un tu per conosci la mia modulazione. Dunque, io che conosco la tua modulazione mi sembra un po' troppo gracchiante in questo caso. Gracchiante, gracchiante, aspetta che... Ma gracchiante perché è troppo alta? Forse sì, forse sì. Non ami di bassi. È quello, grazie, non ami lo baci, nemmeno così, vero? Adesso ho abbassato un po'. Così ha recuperato qualcosa. Prova su questa strada. Ok, adesso sono abbassato un pochettino, ho abbassato un pochettino. 1, 2, 3, prova, sono a 29. Quello che volevo sapere era come ti sembra, soprattutto la mia modulazione, tu la conosci, eh? Sì, questa forse è quella più fedele, che si avvicina di più. Ma voglio dire, come la senti, se ti piace, non ti piace, che cavolo ti posso dire, se trovi qualche problema. Comunque è abbastanza piatta, non ha calore, ha preso qualcosa di più rispetto a prima come medio-bassi, però è ancora un po' gracchiante, quindi se riesci a eliminare quello e a dargli un po' più di corpo, un po' più di calore, dovrebbe acquistare in gradevolezza. Allora, vediamo un attimino, questo è 80 e questo è 1. Ah, guarda se cambia qualcosa così, guarda la parte bassa, no? Un po' più di bassa, la guarda se cambia qualcosa. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ti sembra che sia cambiato qualcosa? Molto marginalmente. Allora, guarda, nel senso dovresti sentire cambiare. Allora, qui sono a 100 Hz, 1, 2, 3, prova, così sono a 200 Hz, 1, 2, 3, prova, così sto ritoccando 300 Hz, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, e così sto toccando 400 Hz, 1, 2, 3, prova. Ha un po' più di calore, ha un po' più di calore. Tra i 200 e 400 praticamente è invariato. Allora guarda, così sono, iniziamo qua, ho capito un attimo, iniziamo qua, allora, qua sono a 100, qui sono a 100, 1, 2, 3, 4, e qua sono a 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sono a 200. Nulla. Allora, qui sono a 200, qui sono a, allora facciamo prima, qui sono a 100, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui sono a 700, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui a 700. Sta acquistando frequenze alte, qualcosa si sente in più. Quindi perdo sui bassi però. Esatto, perdi sui bassi, sui medi in questo caso. Allora vediamo, 93, vediamo. Allora vediamo qua, aspetta. Modulazione rimasta in alterazza. Sì, così, così. Guarda, guarda questo, adesso da così, è cambiato qualcosa da questa posizione a questa posizione, questa posizione 1, 2, 3, prova, e quest'altra posizione 1, 2, 3, prova, è cambiato qualcosa. Sì, che va leggermente in distorsione, guadagna in distorsione. Ascolta, se io faccio così, guarda, così sono 1500, così sono 800, così sono 800 e così sono 1500. 1500 è gracchiante. 800 come la senti? 800 mi sembra più pulita. Allora, se io faccio questa passata, la guarda, così è spento, così sono 700, così sono 1000, e così sono 1500, così sono 1500. No, 1500 no, 1000 è il massimo in questo caso, poi inizia a diventare graffiante. Quindi tu dici così che vada meglio. Sì, considera Fabri che noi siamo comunque in banda laterale, ma un tiro di schioppo, quindi insomma poi bisognerà vedere gli effetti come potrebbero essere con distanze maggiori. Sì, ma voglio dire, se adesso tu mi stai ascoltando questa modulazione in questa maniera qua, di momento qua, è un casino regolare questa cosa. Aspetta. Se io aumento, sono in questa posizione qua, devi dire tu cosa senti della mia modulazione che non va bene. Fabri, diciamo che continua ad avere un po' di carenza di bassi, questo non ce li ha, è abbastanza piatta sui medi. Però sui bassi diciamo. Sì, non ha corpo, non dà quella profondità e quel calore, è abbastanza piatta. Poi il resto dei setup su quelle frequenze praticamente è servito solo per dargli un po' più di spinta, però la stava portando in distorsione la voce. Poi l'ho anche toccato un'altra cosa, mentre voglio vedere un parametro. Casino sottofondo sento. E che? Adesso la vento, no? Sì, cazzo, io sono in un buco qua, quindi la sento la ventola dell'apparecchio. Ok, va bene, l'importante è sapere che qual è l'origine. Non so proprio la ventola dell'apparecchio, aspetta. Come spostato l'equalizzatore. Sì. Ora, 1, 2, 3, prova. Se io li tolgo completamente, aspetta. 92. Ecco, 1500, facciamo così. Se io faccio così, 1, 2, 3, prova. E poi faccio prima di due, 1, 2, 3, prova. Cosa succede con questa condizione qua, 1, 2, 3, prova? Beh, questa sembra quasi la condizione di quanto, di quando hai spento l'equalizzatore con un po' più di spinta. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Però è sempre povera di bassi, no? Tutto sommato ne ha più di prima, di quando stai facendo tutte le prove con insomma quelli 10 minuti fa, le prove 10 minuti fa. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. In questa condizione invece come ti sembra? Secondo me sta acquistando piano piano medio bassi, mi sembra, e comunque ho notato che con le funzioni monitor è una buona indicazione di quello che sta poi succedendo nella trasmissione audio. Aspetta che me le segno e poi le modifico queste, me le hanno date. Aspetta, facciamo un secondo. D'altronde poi ogni modulazione, ogni regolazione va di pari passo con quella che è la caratteristica audio della propria voce, quindi insomma sono da prendere un po' con le pinze. Piuttosto io, cavolo, mi sto rendendo conto che sto trasmettendo un filo di voce e si sente tantissimo, ma arriva così sparata anche da te. Non proprio, ma io ti sento bene. Sono proprio sottovoce che sto parlando, però vedo che il microfono apprezza questa alzata. Sembra quasi il telefonista mascherato. Ma cosa sta volando? Vediamo di no. Oggi ho apprezzato per la prima volta la partenza dell'evento di raffreddamento. Porca miseria, il flusso d'aria che spara. Vero. Bello massiccio, proprio bello massiccio. Solo che credo che alla fine i ventoloni tendano ad innescare un po' di rumore di sottofondo. Stavo parlando con Pomponio questo pomeriggio e mi ha detto che sembrava quasi un flusso di alternanza. La vento. Uno, due, tre, prova, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova. Ti sembra che sia cambiata qualcosa? No, a parte che si sente il rumore della ventola, ma è più piatta di prima. Il setup, quell'ultimo che mi hai fatto sentire, secondo me è quello più idoneo. Allora, così ho fatto 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, e così ho spento la media frequenza. 1, 2, 3, prova, media frequenza, non c'è più. Lascerò a casa. E poi posso fare anche così, media frequenza, aspetta che non si capisco più un carte. Allora, media frequenza, off, 96, 1, cuccio, 3200, 10 e 1. Ma e se io faccio così, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. È cambiato qualcosa da questo passaggio qua? Da questo passaggio qua cambia qualcosa? Sì, stai stringendo troppo. Quindi secondo te così va meglio? A me sembra che vada meglio dal mono, così o mi sbaglio? Non ti sbagli, così va meglio. Così va meglio. Allora, se io rimango con te... Sì, però adesso stai disponendo... Non stringere troppo, perché sono la voce sembra in una camera allattata. No, non sto stringendo, ho allargato il cuo, però io, guarda, aspetta, cambiando la frequenza, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, così è spento, 1, 2, 3, prova, guarda, adesso prendo il qua, così sono a 1.600, così sono 2.500, e così sono 3.200, è cambiato qualcosa? Non più di tanto, non mi sembra Fabri. Guarda, quindi secondo te questo passaggio qua è fatto, va, faccio un paio di passaggi, allora così l'ho stretto molto, 1, 2, 3, trovo, 1, 2, così sono 1. Aspetta che mi stanno chiamando, sì. Sì, ho sentito. Stavo dicendo veloce che chiudo, che c'è il bambino che sta, questo passaggio qua così termina, questo passaggio qua, a questo passaggio da qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non c'è differenza? Sì, nell'ultimo c'hai un po' più di medi o alti, medi soprattutto, un po' più di medi. Quindi ti va un po' meglio, dai. Ehi, ha acquistato qualcosina in più, però stai sempre girando attorno alla, diciamo, alla stessa gradazione, tutto sommato, non è che ci sono questi grandi stravolgimenti. Lo so, ascolta, lascio che c'è il bambino che mi canto la moglie, che se per la seconda volta la sta vomitando, ci sentiamo domani, al limite se ci sei facciamo un altro paio di prove. Assolutamente, vai, tranquillo, ci mancherebbe altro. Ciao, buon tutto, ci sentiamo domani. Ciao. Chi c'è? Siamo in banda laterale. Dove sei, Nem? Non ti sento. Aspetta che mi sposto in AM. Ecco qua in AM. Chi è? Buonasera. Buonasera. Chi sei, Falchetto? Signor sì. Ah, carissimo signor sì. Salvatore da questa parte. Ben salvato. Ma eravate in banda laterale, non mi sentivi? No, negativo, non ti sentivo, stavo parlando con Fabrizio, settando facendo delle prove con il suo mixer audio, e alla fine niente, adesso ha chiuso, cioè il bambino stava poco bene. E tu mi conta, come mi senti con queste cuffie? Insomma, non tanto bene, forse sono io, ho spostato di canale, lo so. Niente, ho trascolto bene. No, considera che sto parlando con un filo di voce, per non disturbare, dove il mic forse è un po' troppo aperto, troppo sollevato, è basso, sembra di un po' più gradevole. Sì, adesso va meglio. Perché c'è gente che è aumentata così. Ecco, sì, ma non bassa, perché giustamente stai parlando a voce bassa, ma già, abbastanza discretamente. No, sono giusto al tratto per salutarvi, è tutto qua. Bisognerebbe mettere a norma, in sicurezza, molte cose. molte cose. Fino a che poi non ci scappano gli incidenti, allora si dice sì, è da fare e lo andremo a sistemare. Però nel frattempo la gente si fa male, vedi, purtroppo. Sì, allora si comporta purtroppo. Finché non succede il danno non riescono a percepire che il danno si può evitare prima di succedere. Però molte volte trascurezza, una cosa o l'altra, purtroppo sa, è così. Assolutamente, assolutamente. Da noi, solo in una occasione è capitato che era per un po' di, chiamiamola, distrazione di un nostro collega operaio che è andato ad abusare in un quadro aperto di media tensione e ha preso una sberla che l'abbiamo dovuto portare via con un elicottero, cacchio, che era tutto bruciato. Posso immaginare, purtroppo quando le cose devono succedere o per distrazione o per disattenzione o per qualsiasi cosa succede, c'è proprio la volontà. Eia. Quello è stato uno dei, forse l'unico, pochissimi casi dove è stata proprio, diciamo, colpa, tra virgolette, della persona. Tutto il resto, tutti gli altri incidenti li abbiamo avuti perché o le attrezzature erano debutte o eccetera eccetera. Tanti ne abbiamo avuto veramente tanti da noi. Tanti. Ovviamente uno durante un trasporto di pannelli d'acciaio enormi che non avevano questi carrelli, i fermi per tenerli perfettamente in verticale, come si sono piatti, a causa di un contraccolpo sono caduti sulla gamba di un collega, si sono fracassata in 4-5 punti. Ed è ancora, nonostante abbia fatto riabilitazione eccetera eccetera, oramai zuppica, penso che quello se lo terrà per tutta la vita. Purtroppo quando succedono queste cose qualche cosa permanente rimane nel danno, oltre il danno anche la beffa, perché giustamente ti rimane il segno. E così è stato, purtroppo con tutta l'attenzione che si possa avere sul lavoro c'è sempre rischio e pericolo, purtroppo è così. Va bene Sandri, io ti saluto, ti auguro un buon 144 anno fa e a te famiglia e ci si riascolta tutte le migliori, perché tu è un po' stanchito e se ne va a ciao. Sacco, fa tanto piacere. Figurati, ti ringrazio, il contraccambio molto volentieri, al 100%. Un abbraccio affettuoso e buonanotte con tutto. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Vedi, qualche uno va via e arriva subito il sostituto. E chi è? Un pazzo di grotte. Ha iniziato a lavorare a mezzanotte. Ciao, vabbè, che a te buon 144, non te lo dico perché se hai iniziato a mezzanotte a lavorare non te lo posso neanche dire. Buon lavoro, buon inizio lavoro e ci si riascolta. Ciao, spassiate bolla. Ciao a te, sono arrivato al momento dei baci e degli abbracci, mi stavo spaventando, comunque ben sentito, è un po' che non ti sento e mi fa piacere sentirti assolutamente. Anche questo, ciao ciao. Ciao, anche a te. Allora Grotte, che si fa Kenne? Ancora. Sto prendendo i 5 minuti della sigaretta che non fumo. E allora li perdo parlando al baracchino. Li perdo tempo parlando al baracchino. Ma come mai Ulisse? Ti sento un po' moscio. Sto parlando a voce super bassa per non disturbare il resto della famiglia. tu famiglia non ne hai, vedi, queste cose non le puoi apprezzare. Sono lì, ho capito, senza famiglia. Solamente quel pastore abruzzese, anzi no, il pastore di Piri. Pastore di Piri, cos'è? Non ho capito. Sai come Remi, il pastore dei Pirenei, il cane, la razza. Ma chi è rimasto a proposito? Il Fabrizio è andato a coricarsi. Fabrizio ha chiuso un'ora fa. C'era il bambino che stava veramente male e quindi ho sentito che stava chiamando la moglie e abbiamo fatto le ultime prove di equalizzazione e ha chiuso. E nel frattempo è subentrato Falchetto, che era, e ora ci sei tu. Trappa di Ruggero, trappa di Ruggero. Va bene, no, io mi sto preparando perché dopo domani siamo di nuovo a lavoro per 4 giorni di fila. Bello tosto, dai. Cosa fate dopo domani? Dopo domani c'è la festa della birra a Saccargia. Cappa, dopo domani, dunque, oggi è mercoledì, venerdì. Esatto, poi iniziano i 3 giorni di non so quale altra festa, quindi a carne madura, capito? Siccome ci serve un gruppo elettrogeno abbastanza sostenuto, o meglio un numero di kilowatt abbastanza sostenuti, stavo un attimino, lo stavo, siccome l'abbiamo comprato nuovo, lo stavo allestendo. Cappa, ma ce l'hai in casa il gruppo elettrogeno? No, di Ruggero, ma non è che ce l'ho in casa. Devi sapere che abito qua, abito in un attico che ha 250, forse 300 metri quadri di terrazzo, capito? Cacchio, l'hai portato da fuori? Non è scesa mai l'ernia, infatti. Non è scesa l'ernia, perché 7 kW pesano 80 kg di generatore, però c'è un modello che ha 2 ruote, quindi c'è una specie di presa tipo carriola, capito? Ho capito, perché possa essere poi tirato anche su strada o semplicemente per trasporto? No, trasporto, quello che va preso in peso, anzi gli sto costruendo anche una rampa per poter essere caricato sul furgone, capito? Cappa, sì, ottima idea. Accidenti, quindi, lo fai regolarmente, che ti porti su quanto alla vecchiatura o è caso eccezionale perché lo vuoi sistemare per aprire le danze? Questo qua perché lo stiamo allestendo, quindi comunque andava essendo nuovo preparato, ma la cosa che noi facciamo sempre, ogni volta, qualsiasi, ogni giorno dobbiamo prendere le macchine, smontarle, lavarle, rimontarle e ricostruire il magazzino. Un magazzino che ho una specie di, diciamo, una casetta di quelle comprate sempre da Bricomer, che avrà tipo 4 metri quadri, 5 metri quadri, dove vengono custoditi i macchinari. Ma non in quel famoso 300 metri quadri di terrazzo? Da sì, in quelli lì. E che cavolo, ogni volta sali, scendi, da quanto sta roba? Ogni volta, però la differenza è che tu vieni nella nostra postazione e vedi tutto in ordine, tutto a posto, tutto pulito, ed è per quello poi alla fine vediamo una cosa che viene con la fianco che però non batte cassa, capito? Ho capito, d'altronde anche lui che vuole la sua parte si presenta in maniera diciamo bella e decente, visto che poi anche roba da chi si mangia, tanto di guadagnato. Anche quello, se tu consideri che noi abbiamo a che fare con un pubblico prettamente, diciamo, di giovane età, comunque bambini, fai molta presa sul genitore nel momento in cui vede che realmente le macchine sono completamente pulite, sono linde e tinte. Tant'è vero che molto spesso ci scambiano per persone che neofiti, cioè persone che hanno iniziato da pochi giorni, perché i macchinari sembrano sempre perennemente nuovi. Questo è buono per voi, buono e buono. Quando una persona si fa una, si chiede due, che può essere migliore, il Celta dipende dalla semplice pulizia delle macchine o come fattore estetico lo guadagnato. No, voi sai benissimo che tipo di studio sto facendo io, perché collega del figlio della tua collega, quindi assolutamente la pulizia in primis, per quanto lo ricordo sempre, meglio un piatto sporco non lavato bene piuttosto che un piatto non sciacquato bene, perché il piatto sporco o il piatto con qualcosa con incrostazione è possibile che il giorno dopo ti faccia venire la cagarella, mentre invece il piatto non sciacquato bene dal detersivo dopo un paio di anni ti fa venire la patologia medica, quindi attenti. Una conseguenza funesta l'utilizzo dei detersivi dell'affetto chimico su di noi, ai noi. Ma fa proprio cagare questa voce, questa mia modulazione. No, diciamo che la tua non è briosa. Ma tu immagini che in quel questo lavoro che mi sono inventato realmente è nato da poco tempo, ma giusto Gianni, il dottor Rumba, era testimone del fatto che un giorno stavo aggiustando proprio una macchina dello zucchero filato che avevo comprato per un giocattolo che si ruppe dopo pochi giorni dall'acquisto e mi presi tutta un'ondata di presa per il culo degli amici e grazie ai quali poi per scommessa comprai quella professionale e sempre per colpa o per merito di un amico che mi dice ma allora adesso va bene fare piatte. L'ho presa scommessa e la prima piatta che ho fatto realmente è stata il carnevale di quest'anno. Bestiale. E poi il discorso è anche perché è presa per il culo. In fin dei conti qualsiasi sagra sono dalle vendite dei dolciumi alla frutta secca, quelli che vendono ogni sorta di prelibatezze, tra tutte quante queste cose c'è anche appunto lo zucchero filato. Capito perché facevano questo commento? No, vabbè, perché sai, vedere di colpo una persona che niente c'entra con la professione di ambulante, ma non per denigrarlo assolutamente, anche perché se c'è una cosa che rispetto in questo momento è proprio questo tipo di lavoro qua, di cui non faccio parte, perché se non ne uffita e non avendo ancora acquisito quell'esperienza, che non acquisirò mai, perché è composta questa esperienza che sto facendo da tre step particolari. Il primo che serve per fare cassetta, il secondo per investire su una cosa un po' particolare, il terzo per investire sul prodotto finale che mi metterà nella condizione di godermi, spero, un po' più di agio. Il primo lo sto parlando avanti adesso, quindi fare questo tipo di lavoro, vedere un attimino di conservare un po' di soldini per passare allo step numero 2, che è quello invece della produzione del cinema, perché oltre a questo tipo di attività che faccio è abbinata, diciamo, alla proiezione del cinema all'aperto. Il campo, quello me l'avevi detto, ce l'hai sempre, no? Quel proiettore HD. Cos'era? Non era un 3D Mission, no? Io in effetti sono l'unica associazione qua in Sardegna, te lo posso garantire, perché questo è nato, cioè l'acquisto di questo proiettore è nato a seguito di una collaborazione che ho avuto con l'università non pagata, fra l'altro, ma che non mi hanno dato ancora un soldo, se non ti dico quanto mi devono. Perché cercavano per un convegno di neurochirurgia un proiettore 3D, che poi sono due proiettori che vengono abbinati con un sostegno particolare, sfasati in modo tale da dare l'effetto 3D. Fatto sta che non l'ho trovato, mi sono messo nella condizione, mio malgrado, di doverlo acquistare. Quindi me ne trovo due, ne ho due, e sono l'unica associazione che può fare il 3D in Sardegna a livello amatoriale. proiettori Bank, che hanno fra l'altro degli ansalumen altissimi, per cui possono proiettare anche con piena luce, di piena luce del giorno. Teli, ovviamente. No, ragazzi, non ho copiato. Più i teli, dico, hai preso anche i teli. No, allora, per proiettare in 3D ci vuole uno schermo agli ioni d'argento, cioè, non ricordo esattamente quale cosa. Ti dico la verità, di quello non ne sto fornendo, ma non voglio fare cinema 3D, non mi interessa. Anche perché è una rottura di scatola, perché ti devi portare dietro gli occhiali, te li restituiscono, quando te li restituiscono sfasciati, quindi non ne vale la pena. Adesso la razza è spesa, cavolo, perché costavano tantissimo, poi quando li presi tu, che li presi quasi un annetto oramai, no? Cavolo, sì, esattamente un annetto fa circa. Dico, quindi, li presi tu costavano anche parecchio, pensa tu che figli di buona madre, beh, ma ogni tanto ci vai a tastare il polso. No, ti dico la verità, è una sola, quella che mi deve, quello che fra l'altro è uscita sul giornale, perché ha fatto un'ottima figura. L'ha fatta tutta sulle spalle mie, però non ti preoccupare che il grobbio non te lo ingruzzi, è al libro, è messa a coso, a buco, a coso, a libro paga come si vuol dire. Pazzesco, periodi come questi, cacchio, la gente si sa che per portare avanti l'attività c'è un'esposizione, con nessi e connessi, insomma, via, è incredibile, è incredibile. Di tutto, cacchio, si inventano poi per le lungare intenti. Poi ti ripeto, io non li considero neanche, cioè, come se fossero persi per me, però credimi che questa persona la paga la grande, la paga chiaramente a livello monetario, non gira mai volerla minacciare in alcun modo, però si è comportata davvero male questa persona, perché ha fatto il suo tornaconto sulle spalle degli altri, questo non è carino, soprattutto dal punto di vista economico, perché ho speso, chiaramente io ho dovuto assumere delle persone per il tipo di servizio che io devo fare, e queste persone chiaramente vengono a battere cassa qua, e non è carino questa cosa. E tu gli hai dovuto dire a queste persone lo stesso discorso che hai fatto, che a te non hanno ancora pagato e quindi necessariamente non puoi pagare a loro. Ma ho avuto una l'intelligenza all'inizio del rapporto di lavoro di dire: allora signori, guardate, per evitare un passaggio in modo tale che poi la prossima volta non passiate tramite me, che chiaramente a cui chiaramente dovete un minimo di percentuale, abbiate i rapporti direttamente con la persona interessata. Questi qua stupidamente, ingenuamente hanno detto sì sì, non c'è problema, quindi io li ho scaricati su quella persona, e a questo punto io ho detto: io vi metterò solamente mi dovete mettere solamente la fattura, perché io vi faccio, diciamo, una cosa di prestazione d'operazionale, quindi sono un mero ragioniere, per i soldi rivolgetevi alla persona, sì sì sì, non c'è problema, fottiti, perché adesso non possono più venire a me e dirmi: beh, i soldi, non ci avete il numero di telefono. E che poi sapranno benissimo che anche tu i soldi non li hai ancora visti. Assolutamente, infatti gli ho detto, il numero di telefono è questo, comunque hanno rapporti, in modo tale che loro, ho detto, voi non vi fregherò certamente, perché come arrivano sarete i primi a saperlo. E viceversa, loro dovessero contattare la tizia, dovessero riuscire tirare fuori dal grano, come minimo vorrebbero direttamente avvisarti. Guarda, poi ti dico una cosa, io sono una di quelle persone che con i soldi non gioca, nel senso che so cosa significa guadagnarsi, è uno dei miei tre valori, che sono gli affetti, la dignità e i soldi, che non hanno una scala perché particolare, non hanno un ordine particolare, gerarchico, ma sono su tre linee completamente diverse, no, quindi non c'è prima uno e poi l'altro, però queste tre cose non mi vanno toccate nella vita, e nel momento in cui me le tocchi sono grazie, come si vuol dire, per cui non le tocco neanche agli altri, non mi permetto mai di guarda, è possibile che abbia qualche piccolo debito. creditore, ma non qualche piccolo creditore, minimamente. E per assurdo è successo, nel senso che sono queste due persone, di un malgrado, e lo sento anche, mi dà fastidio, tant'è vero che alla fine gli anticiperò soldi per questo motivo. Che tristezza. E questo poi ci si è riuscito a parlare anche, dico non solo di al telefono, persone. Mi telefonato ogni 5 minuti, dicendomi non mi lasciare nella bagna, mi raccomando, mi tieni nella condizione di portare a casa il risultato, assolutamente, mi divido da una. Capito? Una volta che il giorno dopo già non mi risponderà più al telefono, per farti capire l'elemento. A prescindere da questo, poi ti ripeto, io sono una di quelle persone che si avvale a volte alla collaborazione anche del lavoro che sto facendo di due persone che vengono stra pagati a fine giornata, boom, così, soldi che vada bene, che vada male, cash, si prendono una cifra che tu, persona laureata, ti sogni, credimi, però proprio perché secondo me le persone vanno pagate, quindi si è deciso un certo onorario all'ora, siamo pagati con i voucher, quindi tutto in regola, tutto assicurato, tutto con i versamenti INPS, tutto in regola, e si prendono una vagonata di soldi. Cavolo, buono, complimenti per essere riuscito ad avere un occhio di riguardo per la che è il lato retribuzione, non sempre insomma chi porta avanti un'attività ha il coraggio di sostenere. Assolutamente, è possibile che qualche giorno magari li abbiamo andati via prima del dovuto perché le cose non stanno andando bene, però loro la mezza giornata gli viene sempre pagata, e credimi, una giornata intera pagata, una barca di soldi per girare l'utero filato, tanto vero che dopo 5 giorni che avevano iniziato a lavorare, dico solo che c'era la fila degli amici che mi chiedeva la stessa cosa, e non c'è soddisfazione più grande di chi, prendendoti per il culo inizialmente, dice cosa fai tu, ah sì, poi alla fine veniva a chiedere, ma ascolta, non è che mi puoi prendere mia sorella, mio cugino, mio amico, molti non hanno avuto il coraggio di dire, ma perché non ti posso aiutare? Sì, perché è una di quelle tante cose, Anto, che non si riesce a soppesare, Penso che uno dice sì, gratuito, però ma quanti possono essere? La maggioranza, se non la totalità della gente, deve un numero completamente a caso, 1.000, 2.000, 1.000.000 di bacchette, quante potrebbero essere? Non si sa, non sapendo stimare questo, va da sé che non si riesce neanche ad immaginare quello che potrebbe essere il ricavato. Da qui, per il culo, direi, vabbè, ma per 10 tine di zucchero filato, figurati, è normale, cioè riesco a dargli la spiegazione causata proprio dalla stanza del non sapere che cos'è che quanto potrebbe essere il movimento. Invece poi al risultato ottenuto ecco che cacchio il silenzio o c'è il silenzio o c'è la consapevolezza che la persona che si stava pigliando per il culo in realtà ha trovato un modo onesto per poter fare di soldi. Non pensare che poi siano così tanti, assolutamente, vogliono una soddisfazione, io sono dell'idea che piuttosto che stare a casa a lamentarsi che non c'è lavoro, quindi non è che ti sto dicendo che sto facendo miliardi, ma tanto meno sto facendo grossi guadagni, io pago forse più i lavoratori di quanto guadagni io, considerando la fatica, considerando il rischio imprenditoriale, tutta una serie di cose, ma perché secondo me il lavoratore sa che va rispettato come tale, però non ci sono così alti guadagni, anche perché poi come tu stai lavorando, se vedono che stai lavorando, subito, il giorno dopo ti copiano, subito, quindi farmi sapersi reinventare e soprattutto non avere quella falsa dignità, perché per secondo molti stare dietro la bancarella è perderla, invece non è così, perderla è quando stai a casa, ti aspetti il sussidio pur essendo un normodotato, perché io non parlo delle persone che hanno difficoltà e ci mancherebbe tanto di cappello ed è giusto che vanno aiutate, ma chi è normodotato e sta a casa, attaccato al baracchino, a lamentarsi che non c'è lavoro, questo non va più bene. Aspetta un attimino, scusa. Questo non va più bene. Allora, io una persona gli avevo detto, ma invece che non fare niente, stare a casa non fare niente, a piangerti addosso, perché non ti metti nella casa? Gli ho detto, a costi zero ti invento un lavoro, e gliel'avevo inventato. Io lì domani mattina c'ero ad aspettarlo, lui non è venuto. Nei confronti dell'ignoranza voluta, che non è dato dal titolo di studio, ma proprio dalla persona che vuole ignorare il come si vive e il come ci si deve comportare. Io a questa persona gli avevo detto, guarda, ti dimostro come costi zero, così ti trovo un lavoro che ti mette nella condizione quantomeno di avere il triplo di quello che il comune ti passa per stare a casa a grattarti la pancia. Uno sta in giro per la strada, quindi comunque ti mette nella condizione di conoscere gente, c'è la possibilità anche di trovare un lavoro, perché quando stai in giro c'è queste opportunità, no? Gli avevo detto, guarda, ci mettiamo due tute, queste devono essere due tute pulite di quelle da meccanico, tipo salopette. Andiamo in un distributore di benzina e ci facciamo dare un litro di olio esausto. Dopodiché con due pennelli andiamo in giro per i negozi e chiediamo se per un caffè, se per un caffè ci fanno ingrassare le guide delle serrande. A fine lavoro, al posto del caffè, dice, guardi, siccome io il caffè l'ho già preso, me lo dà un euro. Io ho stimato che, a parte che di euro, se tu ne chiedi uno te ne danno minimo due, se non trovi anche quello che te ne dà cinque, pur essendo in una condizione adesso di disagio economico. Però io ho stimato che al giorno avremmo fatto, andandoci male, una trentina di euro, 30 euro. Io avevo detto a questa persona, guarda, tutto quello che facciamo te lo tieni, per me è una scommessa, per te è una necessità. 30 per 30, stiamo parlando di 900 euro puliti in tasca. Ti ripeto, io il giorno c'ero, lui non si è fatto vedere. E voi che ti dica? Perché un po' di tempo fa, quando l'ufficio del lavoro fece un controllo da noi, ci intimò assumere, perché non erano mai state assunte, delle persone, prendendole dalle liste speciali. E il calcolo faceva esattamente 4 persone. Ebbene, quelle 4 persone noi ne assumemmo 3, perché la quarta aveva chiesto cortesia e ci aveva anche fidato di cercarlo, perché lui guadagnava molto di più con la disoccupazione e lavorando in nero, ciò che rischiando di essere regolarizzato con una somma a tempo indeterminato come operaio. Sì, ma ti ripeto, famosa era, ma credo che sia così alla fine, la protesta dei disoccupati di fronte all'ufficio di collocamento di Napoli, dove è passato un impresario, indicò una persona e gli disse, va bene, tu da oggi lavorerai con me. E questo qua gli disse all'impresario, quasi irrettito, ma dice, ma perché proprio io? Non ho capito. Quasi fosse una colpa, perché dal giorno dopo ti devi mettere a lavorare. Ma poi quello che a me mi fa ridere è che la maggior parte delle persone che non hanno né titolo né voglia, vogliono alla fine sicuramente, perché tutti lo vogliamo, capito? Un posto dove ti danno una scrivania, dove devi stare seduto e sicuramente dove non lavori più di tanto. Io per come ti conosco, sicuramente tu non sei uno di questi per titoli e per voler lavorare, anzi mi sembri un po' figlio di Stakhanov, ma a furia di frequentare, di fare tirocinio all'interno di uffici pubblici, mi sono reso conto che cosa significa, cioè perché esistono persone come Brunetta. Ho scoperto cosa significa avere il doppio cappotto, cioè gente che ha il cappotto appeso perennemente all'attaccapanni dell'ufficio. Anche d'inverno c'ha il paltò, anche d'estate c'ha il paltò. Perché cosa fanno? Prendono il cappotto, se ne portano uno in più in ufficio, lo attaccano, e il conto Brunetta è che tutti quanti, comunque, dicono, se tu chiedi a una persona, ma era qua fino a 5 minuti fa, non l'ha visto. Si coprono così. Tu immaginati che una volta fece una figura di merda uno di un ufficio pubblico dove andai a chiedere, sono andato a chiedere da poco un'informazione, però l'addetto era questa persona di cui conoscevo il nome, quindi chiesi alla persona, ma dov'è questo? E dice, come era qua 5 minuti fa? Faccio 4 passi e chiedo a un'altra persona se l'avesse visto, e dice, no, ma è in ferie da 2 settimane, capito? Pensa che figura di merda. Sa che figura di merda, abituati a coprirsi, sì, come hai detto tu, però ho avuto un bobbisticcio perché mi sono veramente alterato la volta, perché io stavo svelando per cercare di risolvergli un problema, poi ho visto il collega che guardava continuamente l'orologio, guardava il cellulare e mi ha detto, ma non sono più qua che ho tempo da perdere per farle perdere tempo, sono venuto qua perché sono pagato per fare un lavoro e mi sto rendendo conto che la soluzione di questo lavoro a lei non me ne frega niente. Mi ha detto, come minimo di decenza la spingerebbe se non altro a darmi ascolto, a capire le spiegazioni che io le sto dando e poi andare all'appuntamento che ha con sua figlia, con il suo amico o come sia. Ero guarda caso ero idrofobo, il giorno ero idrofobo, quindi come parlaccia, io lavoro perché mi dà fastidio. Il giorno guarda ero, è una persona che è più grande di me questa, però ero veramente schifato. Qual era? Posso immaginare chi è? No, non è quella mi fa la mamma, la mamma, insomma, quella mi fa girare le palle, per cui non è quella. No, un'altra persona, non è vero che poi avevo avuto un con il direttore generale e gli ho detto, ingegnere, ma c'è gente che non ha capito, ci sono milioni di persone disoccupate e non si rendono conto del culo che hanno ad avere un stipendio alla fine del mese questi. Sì, è vero, ma poi gente che perde il lavoro davvero per stupidaggine. Un giorno ne parliamo, anche persone che, vabbè, lasciamo perdere. Salato, mi sa che io sto criticando qui alla fine le persone che come sto facendo io in questo momento, perché c'è la mia 25 che è lì che sta lavorando e sta facendo anche il lavoro mio. Quindi ti devo assolutamente lasciare, ti ringrazio per il QSO e ci sentiamo alle prossime, buon 144 e buon QRT quando lo farai. Assolutamente, grazie a te. Io nel frattempo sono arrivato testa a testa finale del torneo, siamo rimasti in due, per cui forse un paio di minuti ed è finita. Grazie a te Anto, un saluto e un abbraccio, buon tutto e buon lavoro visto che ti stai mettendo a chiamare le tue cose e complimenti per tutto comunque. Ringrazio, ricambiato al centro, ciao.